Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800 24 0024. Buongiorno, la politica ricomincia a crepitare, voglio dire, non c'è niente di esplosivo, però piccoli fuochi d'artificio, quelli magari minori da festa di campagna, si vedono. Perché? Perché, vabbè, insomma, c'è questo decreto, questa legge, questo decretone sulla sicurezza che è all'ordine del giorno e che è il fiore all'occhiello della Lega Nord e che riguarda questioni che naturalmente sono drammaticamente presenti a tutta l'opinione pubblica e che dividono in modo feroce il paese. Adesso il voto su questo decretone sarà per decisione del governo, che ha il diritto di richiederlo, un voto di fiducia, quindi un voto out, non è che si sta lì a fare tanti emendamenti, a cambiare, a fare compromessi e mediazioni. A un certo punto, dopo che le mediazioni su alcuni aspetti del decreto sono state, basta, è il momento di decidere. E effettivamente c'è divisione sia in Parlamento, sia nell'opinione pubblica, sia nella stessa maggioranza. L'impressione però, quindi il voto di fiducia ci sarà la settimana prossima, l'impressione però è che si stia applicando un vecchio schema della Prima Repubblica, quando la Democrazia Cristiana regnava più o meno felicemente con alcuni alleati diciamo minori di centro, di centro-sinistra, e tutto succedeva in famiglia, cioè sì, dall'esterno c'erano accuse roventi, come adesso per esempio Franceschini dice leggi razziali, che non è neanche un'accusa rovente, è una cosa per cui se uno dice leggi razziali, appunto, si pone un problema di appartenenza nazionale, di identità politica e civile, bisogna prendere le armi, bisogna, non so, riunirsi e forse anche mettere delle bombe, perché le leggi razziali sono l'orrore del XX secolo, ecco che nel XXI secolo, vabbè, diciamo che era un'iperbole, che Franceschini è un propagandista anche abile certe volte, ha deciso di alzare la tensione in una fase che per tutti, non solo per lui naturalmente, è una fase preelettorale, e ha deciso di giocare una carta dura sul decreto sicurezza, perché, come osserva Federico Geremicca oggi sulla stampa, Federico Geremicca è un notista politico di vaglia, che succede? Succede che ci sono molte opposizioni sociali di vario genere. Tra l'altro il centrodestra adesso, dal divorzio di Berlusconi e della moglie, fino a queste questioni qui, gode quasi sempre di una opposizione, diciamolo pure, del Vaticano, dei Vescovi, della Conferenza Episcopale Italiana. Insomma, ci sono molti punti di attrito, il che rende naturalmente la situazione anche da questo punto di vista più interessante. Sappiamo che sulla questione dell'immigrazione, decidere che l'immigrazione clandestina è un reato e tutto quello che ne consegue, c'è proprio una verticale differenza sulla quale in realtà Berlusconi è in imbarazzo, Fini non ne parliamo nemmeno, ma Fini esce dall'imbarazzo con una sua linea istituzionale molto, molto astuta, e i poli sono da un lato la Lega Nord, insomma i suoi spiriti animali, o anche il suo disegno e progetto razionale perché c'è anche il diritto di affermare quelle cose. Ci sono paesi europei, come una volta ci ha spiegato qui Maroni, che le applicano da molti anni senza strepito e senza scandalo, però da un lato ci sono loro e dall'altro ci sono ambienti decisivi e maggioritari del mondo cattolico. Insomma, una situazione molto complicata in cui sembra che tutto si risolva all'interno della coalizione, tornano i franchi tiratori, tornano i problemi, diciamo, di attuazione di un programma di governo, di varo delle leggi, in mezzo appunto a questo grande strepito, crepitio di colpi da una parte e dall'altra. Adesso ne discuteremo con Ritanna Armeni del Riformista, buongiorno, con Michele Brambilla, vice direttore del Giornale, buongiorno, c'è Brambilla? Sono io, buongiorno. Salute. Con Maria Teresa Meli del Corriere della Sera, che insomma ci vive nel transatlantico. Meli, c'è? Sì, buongiorno. Buongiorno. E con Francesco Cundari del Foglio, che è qui con me e con Armeni nello studio. Buongiorno. Bene, partiamo dai clandestini e dalla sicurezza. Maria Teresa Meli, il ministro Maroni dice, rinviando alla settimana prossima il voto sul decreto sicurezza e la corrispondente fiducia, facciamo uscire altri 250 clandestini senza le le procedure di identificazione e di prima integrazione, diciamo, che sono necessarie. E quindi si realizza quella specie di indulto mascherato di cui aveva già parlato Maroni quando gli hanno tagliato i tempi, diciamo, di detenzione dell'immigrato clandestino. È un'accusa molto forte, molto aspra. C'è chi dice invece che la Lega vuole tenere i suoi stati maggiori, il suo congressone a Vicenza venerdì e sabato, che siamo in clima preelettorale, che avrebbe gradito avere alle sue spalle ormai il decreto sicurezza approvato dalla Camera dei Deputati. Com'è la situazione? Che sta succedendo? Su questo decreto sicurezza, oltre ad essere appunto un problema della Lega, che la Lega vuole, è un problema proprio di Maroni personale, perché Maroni si sta candidando a fare, insomma, ad essere il successore di Bossi, quindi è ovvio che si sta giocando tutto. E il fatto che sia slittato in una settimana il voto di fiducia lo mette in difficoltà, perché avrebbe appunto voluto chiudere tutto oggi e presentarsi al congresso con questo successo che lui ritiene essere un successo personale. Ho capito. Va bene, c'è anche il fattore personale di Maroni. Brambilla, che succede nella maggioranza di centrodestra, secondo lei? C'è quest'area da vecchia Italia democristiana in cui tutte le posizioni erano rappresentate all'interno, diciamo, del partito di maggioranza relativa allora, insomma, che era però il blocco di sostegno del governo. Per esempio la Mussolini è una combattente vera per i diritti, no? C'è chi parla ormai di destra dei diritti. Fini ha fatto questa cosa abbastanza straordinaria di attuare una propria conversione politico-culturale, addirittura contro la sua stessa legge, la logica di quella legge, la famosa legge Bossi-Fini. Ed è lì che sui presidi spia, sui medici spia, l'espressione magari è un po' rozza, ma insomma la uso perché è invalsa, su tutte queste questioni qui media a favore di una concezione più elevata, diciamo più meno gretta o comunque meno limitata, insomma, del tema dei diritti. Che succede? Sono tutte le posizioni, perché poi c'è anche la Lega, c'è Maroni, c'è... Mi pare naturale che ci siano opinioni diverse su vari temi. Per esempio, personalmente, anche a me non piace l'idea che esista un reato di clandestinità, benché sia in vigore in molti paesi d'Europa e benché trovi assurdo il paragone che Franceschini fa con le leggi razziali. Quindi ci sono sensibilità diverse, queste di volta in volta emergono su vari temi, pensiamo alle questioni che riguardano l'etica, no? Ci sono i laici, i cattolici e così via. Però, detto questo, stavo per dire la stessa cosa che ha detto prima Maria Teresa Meli, cioè ci sono proprio delle partite evidentemente personali. Lei ha citato quella di Maroni, che è palese, ma anche Fini sta giocando una partita personale e sappiamo benissimo perché. Insomma, parliamoci senza ipocrisie, Berlusconi ha un consenso elevatissimo e rischia di soffocare le altre componenti del PDL e del centrodestra, per cui la Lega gli si oppone sul referendum, gli si oppone, ha una posizione diversa sul referendum elettorale per motivi evidenti, e Fini si mette, per così dire, di traverso su una serie di questioni con scadenza settimanale. Ecco, io ho l'impressione che questa storia di Fini che si mette di traverso va analizzata bene, perché è molto interessante. Nella politica italiana di cose molto interessanti non ne succedono da un po'. Questa di Fini lo è, obiettivamente. Nel senso che, cerco di spiegarmi, Brambilla, se mi segue, e sì. Poi volevo estendere anche a Ritan, Armenia, a Francesco Cundari la domanda. Allora, Fini non è come Casini. Casini era un manovratore politico che dalla presidenza della Camera tendeva appunto a mettersi talvolta di traverso, a negoziare un suo spazio politico con Berlusconi e a fare da ponte con l'opposizione. Classica posizione di una forza di centro, no? Associata a una coalizione di centrodestra. E non aveva specificamente un suo pensiero, aveva sì un suo tono, un suo stile, ma non... Fini è diverso, perché Fini, ripeto, era in quanto capo di una destra divenuta poi destra democratica nell'affratellamento, diciamo così, con Berlusconi. Fini era l'eterno secondo, Fini era il delfino che non sarebbe mai diventato il numero uno, Fini era un manovratore così, abbastanza minore. Invece è diventato diventato una cosa importante attraverso una conversione politico-culturale. Cioè, Fini dice veramente delle cose, si capisce quando fa l'oratore solitario, è un po' dissenziente nel congresso del suo partito, in quello del PDL, il partito AN che si scioglieva, e poi in quello del PDL. Quando diciamo, mostra in asse con il Presidente della Repubblica il suo cambiamento politico-culturale sulle principali questioni in agenda, ed è un straordinario esperimento, Brambilla, politologico, perché Fini ha mollato, diciamo, il suo partito, no? Mollato, non è più identificabile, ha detto io non faccio il capo corrente di Gasparri, di Matteoli, certo ha con loro un rapporto, con la Russa, figuriamoci, ma lui dice io ho una posizione istituzionale di Presidente della Camera e anche una prospettiva per cui questa mia conversione politico-culturale la metto, come dire, al servizio di un progetto che è appunto questo della destra dei diritti, di una destra molto evoluta che supera, ecco, non è un gran fenomeno perché poi riesce ad essere efficace, cioè quelle cose che vuole realizzare le realizza. Fini sta sparigliando ed è probabile, come dice lei, che sia frutto di una conversione politico-culturale. Questo è possibilissimo, io non nego una buona fede, assolutamente. Però così mi domando, non mi do una risposta, ma mi domando che cosa poi possa raccogliere dall'elettorato di centrodestra alla fine di questo suo continuo sparigliare, perché insomma la battuta che circola a fine di qualcosa di destra, sì, è una battuta, ma non è del tutto campata per aria. Cioè, mi domando perché alla fine uno non possa dirgli vabbè, ma allora che ci stai a fare in una coalizione che ha l'elettorato leghista, ha l'elettorato cattolico in maggioranza rispetto al centrosinistra. Insomma, è una partita interessante. Osservazione interessante. Cioè lei parte dal rapporto col paese, con la base elettorale, cioè quello che Fini sta realizzando nel palazzo potrebbe non avere un riscontro. Comunque, Armeni. Ecco, io credo che Fini, hai ragione Giuliano, giochi una battaglia. La giochi però su due piani, su quello della costruzione di una destra dei diritti e di una destra delle regole. Cioè, secondo me, gli interlocutori sono due. Da una parte c'è la Lega, la battaglia per i diritti. Dall'altra, secondo me, la destra delle regole, rispetto, diciamo, ad un berlusconismo che è proprio, come dire, un po' antilegalitario, un po' irruento, un po' che spazza le regole, che è comunque molto, come dire, leggero su questa faccenda. Io credo che la battaglia di Fini non possa che essere solitaria in questa fase. Cioè, è proprio perché è una battaglia culturale, come diceva Brambilla, che spariglia e non può che essere tale. Cioè, non ci si può aspettare. Ha fatto benissimo, secondo me, a sganciarsi dai suoi colonnelli. Altrimenti, perché una battaglia culturale non può in questa fase avere delle mediazioni, deve avere delle grandi rotture, e questo, secondo me, le sta facendo. Francesco Cundari del Foglio, e questa storia della conversione di Fini, e soprattutto questa innovazione politica per cui uno senza un partito, senza un partito dietro, senza strumenti, però in realtà è più efficace, cioè riesce a realizzare di più la sua politica. Lei pensa che sia una cosa che ha delle basi nella realtà o no? Innanzitutto, di politici senza un partito dietro, che senza un partito dietro riuscivano a realizzare eccetera eccetera, dal 92-93 a oggi ne abbiamo visti più di uno, anzi forse ormai le mosche bianche sono quelli che lo fanno con un partito alle spalle. Ne dico uno solo per capirci, e con una battuta: nel 93 Silvio Berlusconi, che non aveva nessun partito alle spalle quando fece la sua discesa in campo, nel 94 se l'era costruita, ha vinto le elezioni. L'altra cosa che mi viene da pensare però, nella differenza, diciamo, la specificità della posizione di Fini è questa. Cioè, naturalmente noi non possiamo, secondo me, prescindere da Berlusconi quando parliamo di Fini. Cioè, per carità, io non penso, non sono per fare, diciamo, obiezioni moralistiche sul penso che, come dire, tutte le partite in politica sono partite personali, martiri non ce ne sono, certo. Ci mancherebbe che uno non guardasse. Però prima di analizzare più diffusamente il retroterra filosofico, politico, culturale delle scelte di Fini, non si può non partire dal fatto che Fini si deve confrontare con il il fatto, l'esigenza sua di avere, diciamo, Berlusconi nel suo stesso partito. E secondo me il modo in cui, diciamo, la principale differenza, il modo in cui lui ha sicuramente, diciamo, scelto di distinguersi e di riposizionarsi rispetto a Berlusconi è questo, lo dico in due parole veramente. E cioè Berlusconi, secondo me, la caratteristica principale di Berlusconi da sempre è, secondo me, la rottura e la contrapposizione frontale con l'establishment. Penso al Berlusconi di Vicenza, che in campagna elettorale dice a Montezemolo, a Della Valle, a fior di, insomma, personalità che hanno un peso sulla stampa, sull'economia finanziaria. Supera diciamo, gli impacci di una lombaggine che aveva denunciato, salta in piedi e comincia a dire: questi mi stanno. Ecco, Fini fa il contrario, secondo me. Diciamo, ma da un punto di vista della propria collocazione. Il suo partito diventa il grandissimo partito dei poteri neutri. Farei di Montezemolo l'uomo delle regole, diciamo. La Corte Costituzionale. Ma lei vuole parlare male dei dirigenti di Confindustria Radio 24? Se posso, molto volentieri. Ma è pazzo, scusi, abbia pazienza. Allora, ma la conclusione del suo ragionamento qual era? Qual è? Cioè, lui sta facendo questa operazione, il partito dell'establishment, insomma, trova il suo spazio lì. Non lo dico ovviamente in senso dispregiativo, ma evidente. Ma c'è un, diciamo, sia dal punto di vista abbastanza evidente, se dobbiamo trovare un filo conduttore nelle diverse prese di posizione di Fini, dalle questioni, diciamo, che attengono alla laicità, all'etica, eccetera, eccetera, alle altre questioni, diciamo, che riguardano appunto la sicurezza. Ma l'obiezione eccetera, che faceva Brambilla, lui con l'establishment ha un futuro assicurato, ma con l'elettorato meno. In questo momento però il suo interlocutore non è l'elettorato, di qui a breve non ha questo problema di confronto, perché con l'elettorato ci parla Berlusconi, perché in questo momento il leader del partito che parla al popolo e che ha il problema del consenso è Berlusconi. Fini deve fare una battaglia più lunga, che tornerà forse, se gli riesce, davanti al popolo molto più avanti, e ora si deve preoccupare di arrivarci. Non è ancora il momento dell'elettorato, è un altro momento, è il momento della rottura questo, non dell'elettorato. Bene, Maria Teresa Meli, com'è Fini? È di buon umore? È in una fase, no, lei che lo vede da dentro, insomma, dalla camera... Assolutamente di buon umore, mi pare anche pacificato con se stesso, nel senso che finalmente ha capito in ritardo che Berlusconi non gli lascerà mai lo scettro, e per quello ha capito che l'unica cosa che può fare è fare un'altra partita. Io non so neanche se lui veramente pensi di poter avere un futuro come leader politico, cioè non credo che lui pensi questo, anche perché appunto stiamo parlando, non so, di un futuro abbastanza lontano nel tempo. Non ho capito come non ha un futuro come leader politico. Come leader politico, non credo che lui pensi di poter diventare un leader eletto, di partito, eccetera. Penso che proprio non ce l'abbia assolutamente. Questa partita ha capito che non la può giocare, che non c'è lo spazio, perché. Cioè è diventato un uomo delle istituzioni. Esatto, punto. È diventato un uomo delle istituzioni. Okay. Può essere che qualcuno, cioè, in un certo punto, in un certo momento, in difficoltà politiche, che adesso però non sappiamo immaginarci perché c'è una maggioranza più che salda. Un super Giuliano Amato della destra. Ecco, d'altra parte Giuliano Amato è un suo ispiratore, un suo maestro, insomma, hanno avuto un forte rapporto all'epoca della Convenzione Repubblicana. Interessante anche questa cosa. Bene. 800 24 00 24, la situazione politica e le grandi accuse. Rashid dalla provincia di Rimini, secondo lei è vero che si stanno approvando leggi razziali in Italia? Penso proprio di sì, cioè la Lega si sta martellando tutte le volte che deve intervenire il problema proprio principale dell'Italia è l'immigrazione. Io penso proprio di no, e come dicevo prima, io vorrei in futuro, e spero veramente, che mia figlia, quando crescerà, non vedrà più uno come Gentilini che va in piazza e chiede di eliminare i zingari, di non più vedere i musulmani, e che faranno la fine di Jean-Marie Le Pen in Francia, che nessuno le andrà a sentire e nessuno le andrà a votare. Lo spero da tutto il cuore. Grazie. Rashid, lei, scusi Rashid, pronto? Sì. E ancora, sì, sì. No, volevo dire una cosa. Gentilini, sì, parla male, ma razzola bene. Lo sa che a Treviso c'è la massima integrazione italiana di immigrati? Lavorano, ci sono piani per le abitazioni. Treviso è esemplare da questo punto di vista. E la provincia di Treviso ha incorporato, adesso non mi ricordo se 60.000 immigrati, in modo molto dignitoso. La cosa anche... Sì? No, le ho detto questo solo per essere, diciamo, giusto verso la realtà. Ha capito? Non è proprio... Non sarei così sicuro che in Italia ci sono le leggi razziali e che Gentilini è un capo. Ma lei ha visto il suo video su YouTube? Video su YouTube con Gentilini che dice delle cose pazzesche. Sì, le ho detto, parla molto male perché sono rozzi. Ma poi, insomma, non lo so, io non lo vedo questo clima. Comunque, naturalmente, ha fatto bene lei a dire quello che pensa. Renzo da Brescia? Renzo da Brescia è caduto? Ai ai ai, allora Antonella da Brescia. Pronto? Vediamo se siamo più fortunati. Buongiorno. Buongiorno. Dica, tutto, complimenti per la trasmissione. Volevo grazie dire molto. Che mi manca moltissimo sulla 7, che si grazie, grazie, grazie. Ascolti, io volevo fare questo intervento riguardo delle grida manzoniane di Franceschini sulle leggi razziali che ritornano, sì, nel nostro paese. Per me è un'esagerazione incredibile e anche un'offesa a chi le ha subite davvero. Vorrei invece sottolineare dov'è Franceschini, dov'è tutta la sinistra davanti a problematiche molto gravi sulle donne straniere in Italia, come l'infibulazione. Ricordiamoci che il nostro Parlamento ha votato contro questa pratica barbara e la sinistra radicale ha votato, si è astenuta, cioè non ha espresso un parere. Ecco, io dico, davanti a tutto questo bisognerebbe riflettere. E io vorrei che, io ho due figlie che da grandi non potessero più vedere ragazze musulmane sepolte nei giardini di casa perché si sono innamorate di un ragazzo di Brescia, per dire. Ecco, io davanti a queste cose rifletto, più che le leggi razziali che non vedo applicate nel mio paese, che comunque sa accogliere, mi soffermo su questi bruttissimi avvenimenti di cronaca che tutti i giorni leggiamo sul giornale, violenze incredibili sulle donne straniere che vengono trattate malissimo dai loro uomini, dai loro compagni, non gli viene data la possibilità di studiare, sì, lei di realizzarsi davvero. Sì, quindi lei mette questo è sui... il problema grave che vorrei tanto che la sinistra affrontasse. E secondo me Francesco Cundari vuole darle una risposta, mi pare di capire, vero? Sì, no, io penso che interloquire. Non, naturalmente non posso parlare a nome della sinistra, per carità. Certamente parlare di leggi razziali è esagerato, eccessivo, anche se per carità appunto c'è stato ricordato prima che cosa dicono nella loro propaganda certi esponenti della Lega, quindi leggi razziali rispetto ad altre cose si sono sentite anche, figuriamoci. Però quello che secondo me, diciamo, cioè io vedo una contraddizione. Voglio dire, secondo me la sinistra, più che parlare di leggi razziali, dovrebbe spiegare che molte cose di questo genere, come il reato di immigrazione, tutto quello clandestino e di tutto quello che ne discende, sono una cattiva politica della sicurezza, cioè non producono sicurezza, ma il contrario. E proprio quello che diceva la signora adesso, secondo me lo dimostra. Faccio tre esempi rapidissimi. La signora parlava adesso del problema dei diritti delle donne immigrate in Italia, infibulazione, cose del genere, eccetera. Benissimo, per, come dire, vigilare, tutelare quei diritti, li dobbiamo ricacciare nella clandestinità, dobbiamo mettere il reato di immigrazione clandestina o dobbiamo invece fare il contrario? Mi spiego meglio con altri due esempi. Si è parlato prima della norma sui medici spia, che poi è stata corretta. Poi si parla un minuto dopo, cioè la norma che diciamo... Sì, c'è una cosa, scusi Cundari, c'è una cosa, lo dico a tutti. Adesso noi diciamo medici spia, quindi è invalsa l'idea che il governo volesse fare dei medici delle spie. E io ho avuto qui il ministro dell'interno, lo dico per... il quale ha detto, no, scusate, non è medici spia, noi abbiamo autorizzato i medici a segnalare... persone irregolari in certi casi, un attimo, no? E ha detto in Germania, che insomma, sì, è stato un paese razzista, certo, ma è uno dei paesi più democratici e più che ha elaborato di più il lutto del suo passato storico nel mondo, in Germania è obbligatorio. Ora, questo è il dato di fatto, bisogna stare attenti, medici spia, presidi spia, adesso veramente poi, con quattro parole, sei formule, otto cose... No, presidi spia, hai ragione, che è esagerato, nel senso che non è che si è detto che i medici o i presidi devono denunciare, ma mentre nel precedente regolamento non potevano denunciare, con questo se vogliono possono denunciare. Ma... Il procedimento, scusami, ti ho tolto la parola Francesco, è questo. Questo ha fatto sì, peraltro, come spesso succede con come è successo spesso con le leggi sulla sicurezza in questo paese, che la loro interpretazione è stata peggiore del testo, nel senso che ci sono stati casi di medici, infermieri che hanno effettivamente denunciato. Allora, il problema di queste leggi è, oltre la legge stessa, la cultura che hanno seminato, che è una cultura secondo me molto pericolosa. No, ridò la paura a Francesco. Scusi, è vero, lo dico a Brambilla, che c'è una forte opposizione, diciamo, civile, morale, etica, sostenuta da organizzazioni prestigiose, perché il Pontificio Consiglio per i Migranti è una cosa che conta, perché noi abbiamo le Caritas, abbiamo il volontariato cattolico, eccetera. E poi i medici si sono ribellati, molte categorie, molte associazioni di medici l'hanno considerata una cosa contraria alla loro deontologia. Allora, per tornare alla valutazione della fase politica, qui c'è un governo e una maggioranza che non hanno apparentemente rivali in Parlamento, sebbene siano costretti a mettere la fiducia e cominci ad emergere il fenomeno dei franchi tiratori, ma hanno forse una opposizione sociale e civile più forte di quanto non si pensasse nel Paese. Brambilla. Sì, è così, ed è un'anima del Paese che ci fa la differenza con altre nazioni. Io mi rendo conto che i clandestini siano un problema, ma perché dico che non mi piace il reato di clandestinità? Perché il clandestino è un poveraccio, ed essere dei poveracci non è un reato. Allora, io credo che sia sufficiente mettere in galera coloro che delinquono e espellere coloro che non hanno il permesso per stare in Italia, ma mandare in galera uno perché è un clandestino a me non piace, così come la questione dei medici spia. È vero quel che dice Maroni, che era solo una facoltà del medico di poter denunciare, ma mettiamoci nei panni non del medico ma del malato. Se io sono un clandestino e ho il dubbio che andando in ospedale posso essere denunciato, non ci vado. E così viene a cadere un diritto elementare, che è quello di essere curato, che deve trascendere la cittadinanza, perché è un diritto universale. È proprio la cultura del nostro paese, che è quella cattolica, insomma, e non soltanto, fa sì che, come dice lei, ci sia naturalmente una forza opposizione a certi modi di porsi, perché il problema degli immigrati esiste, ma dire, come ha fatto il ministro Maroni, che bisogna essere cattivi con i clandestini è un brutto segnale. Poi lui si è corretto, insomma, però Brambilla, io sono più a destra di lei culturalmente, io penso che i confini sono i confini, che c'entra che è un poveraccio il clandestino, ma che vada espulso. Ma i confini sono i confini, anche questa storia delle navi che girano per il Mediterraneo intorno alla Sicilia che vogliono sbarcare, i confini sono i confini. Perché ne girano tante? Perché nessuna è mai stata respinta. Nessuno, naturalmente accolti secondo i principi, figuriamoci, del diritto umanitario, ma poi concretamente respinti, riportati indietro. Quando Maroni dice che bisogna essere cattivi, credo che dica questo, dice: ma esiste un confine, va rispettato, c'è una pianificazione dei flussi migratori, va organizzata, governata, o vogliamo affidare tutto al caso generico e all'umanitarismo puro, assoluto, che non prevede l'esistenza di confini. Capito? Io sul reato non so, Kundari mi guarda. Io sono più cinico da questo punto di vista. In galera, perché sono clandestini che non mi torna. Posso dire anche una banalità, è anche un costo inutile per il nostro paese. Se uno è entrato violando i confini, deve essere rimandato indietro, caricato su un aereo e rimandato indietro, sono d'accordo con lei. Non vedo la necessità di dargli un anno di carcere come gli danno in alcuni paesi, addirittura fino a tre. Ma soprattutto c'è un elemento che non è di umanitarismo, ma proprio ancora, se vuole, più cinico e utilitaristico. Ripeto, se si fa la norma come quella chiamata per brevità sui medici spia, insomma, che dà la facoltà ai medici di denunciare, e succede poi che gli ambulatori pronto soccorso si svuotano di clandestini, e il giorno dopo diciamo allarme influenza suina, bisogna assolutamente isolare e abbiamo svuotato appena gli ospedali di pronto soccorso delle persone più, diciamo, a rischio. È una cosa che fa, come dire, danneggia tutti, certo, per, certo, la sicurezza. Certo, è lo stesso per i presidi. Se diciamo bisogna togliere dalla strada i ragazzini che vanno a molestare, a chiedere l'elemosina, a derubare, eccetera, e poi gli impediamo di mandarli a scuola perché saprebbero che... Facciamo una cosa il suo contrario, che danneggia, che è una cattiva politica della sicurezza, non è una questione di umanitarismo. E soprattutto non risolve i problemi della sicurezza mentre aumenta i problemi, diciamo, bene, così, di una cultura razzista. Ci siamo giustamente fatti trascinare sui problemi di valore più importanti e siamo andati, diciamo, al di là della valutazione della situazione politica, ma era normale che fosse così dato l'argomento. Bene, 800 24 00 24, siamo passati dalla valutazione della situazione politica al merito delle questioni, all'immigrazione. Adesso torniamo al caso Fini, perché è molto interessante. 10 anni fa circa Fini si associò, perché le cose hanno un senso in politica e tutto sommato certi elementi persistono, e si associò con Mario Segni e con Marco Tardas, non so se ricordate, e Peppino Calderisi, cioè due deputati radicali o ex radicali di Forza Italia, e con Mario Segni, che è un, diciamo, un uomo del mondo laico, cioè del mondo cattolico, ma insomma del mondo cattolico progressista, Sassari, la buona borghesia, insomma l'aristocrazia politica sarda. Si associò con loro e fece una lista per le europee in polemica con la lista di Berlusconi. Oggi, chiedo a Maria Teresa Meli, si parla molto, dicevo prima, a destra dei diritti, diciamo delle relazioni speciali tra Gianfranco Fini e Della Vedova, Benedetto Della Vedova, che è un bravissimo, simpaticissimo, colto deputato di origine radicale di Forza Italia, che appunto sul tema dei diritti ha cercato di costruire una rete di collegamento anche con Renato Brunetta, persino con il cattolico capo di quel che resta della Democrazia Cristiana, Gianfranco Rotondi. Insomma, c'è un'area liberale o liberal sul piano dei diritti anche nel PDL, con la quale Fini si collega attraverso il contatto con queste personalità di ambienti di origine, insomma di radici radicali. È così? È un indizio? Si vedono? Meli, le chiediamo notizie. No, sì, come no, è un indizio, e infatti non è un caso che anche nell'associazione di Fini Fare Futuro siano presenti molti esponenti radicali, per esempio la docente che ha scritto il... Sofia Ventura. Esatto, sì. Sofia Ventura è una che viene da radicali ed è amica di Benedetto Della Vedova, per appunto. Oh, questa è analisi politica, non vorrei che poi ci dicessero che stiamo schedando le persone. No, assolutamente... no, perché in Italia sei un'accusa di... Sì. E quindi certo, c'è assolutamente questi rapporti, lui li ha mantenuti, all'epoca andò male perché andò male elettoralmente, soprattutto perché lui l'aveva appunto messa in una competizione con Berlusconi. Adesso che si è tolto da quel terreno, effettivamente è un suo interesse, e lui ha rapporti, certo, anche con altri, certo, ex radicali che sono appunto... non sono, cioè, anche finiti in Forza Italia, che gravitano intorno a Forza Italia, che però non sono diventati bechini. Si è arrabbiata molto Tina dalla provincia di Milano, vedo qui molti punti esclamativi nella scheda che fa il nostro valoroso call center, quindi diamole la parola. Tina? Pronto, buongiorno. Eccomi. Dottor Ferrara. Eccomi qui. Sì, sono arrabbiatissima, anzi no, la ringrazio per aver portato come esempio la Germania in merito alla frase di Maroni, eccetera, dobbiamo, sì, essere cattivi, ma insomma siamo un po' stufi però di sentire sempre, noi diciamo soltanto che vogliamo essere cattivi e poi prendiamo tutti. Abbiamo la Spagna con un certo signor Zapatero, sì, che buonista, governo buonista, di sinistra, eccetera, però ha fatto mettere il filo spinato, ha dato ordine di sparare e nessuno mai ne parla. Ecco, il suo interlocutore, il signor Brambilla, mi pare, ecco, vorrei un commento, sì, su questo. Mi farebbe Brambilla, una cortesia. Brambilla, commenti per la signora Tina, il fatto indubitabile che Zapatero, diciamo, con gli immigrati è piuttosto duro. La signora ha perfettamente ragione quando dice che non parliamo mai di Zapatero, perché c'è tutto un mondo politicamente corretto che si guarda bene dal dire che il laico e progressista Zapatero si comporta così. La signora in questo ha ragione, ma io vorrei ripetere, un conto è respingere i clandestini, come fa Zapatero. Zapatero lo fa anche molto male perché spara. Comunque, un conto è respingere i clandestini, un conto è prevedere che il clandestino, una volta preso in Italia, debba stare 6 mesi o 1 anno o 3 anni, come in alcuni paesi d'Europa, in carcere. Questo mi sembra inutile, costoso e forse anche un po' ingiusto. Cioè, il clandestino, io non dico che debba rimanere qui, non è buonismo il mio, è pragmatismo, cioè non vedo il motivo per cui vada posso introdotto... suggerire adesso, io scusate, faccio il bastian contrario perché poi ho tanti dubbi anch'io, diciamo, anch'io sono un cittadino democratico, però voglio dire, scusi Brambilla, non è che uno vuole mettere in galera i clandestini, che è brutto anche solo a dirsi e persino a pensarsi, ma uno dice, se il destino di chi infrange il divieto di entrare clandestinamente in Italia è il carcere, avremo meno clandestini. Cioè, insomma, le pene sono considerate qualcosa che ha un effetto di deterrenza, no? Bah, non lo so. Credo che sia per quello che hanno voluto introdurre il reato, se no sono pazzi. Scusi Ferrara, lei dice non è che si voglia mettere in carcere le clandestine. No, è proprio così. In Gran Bretagna ci sono fino a 6 mesi, in Francia fino a 1 anno di reclusione. Chiedo scusa, ancora un momento di riflessione logica. Poi se io stabilisco che non è un reato, uno viene. Se dico no, guarda, scusa, è un reato, uno ci pensa due volte prima di venire. Poi ci sarà il clandestino che non sa niente, che viene usato dagli schiavisti, che viene dai deserti profondi, eccetera, che viene comunque, figuriamoci, quelli affrontano le tempeste dello stretto di Sicilia d'inverno per venire, gliene fotte assai di 6 mesi. Scoraggiamo le Filippine che vengono a fare le badanti, magari, quelli che leggono il giornale prima. E non i criminali che abbiamo in mente noi, non leggono il giornale o la gazzetta ufficiale. No. Ma poi Giuliano, che si ha in mente quando si fa questa propaganda. C'è un altro problema, qui si citano spesso i paesi stranieri, si dice la Spagna, la Germania, eccetera. Il problema è che questi paesi, o sparando ai clandestini o dicendo che il reato di clandestinità, il problema più grosso che viviamo è che non si risolve. Cioè, noi possiamo fare quello che ci pare e dobbiamo rassegnarci al fatto che masse di disperati arriveranno da noi, assolutamente. Quindi è inutile, forse è più utile per tutti, per loro e per noi, ripensare i sistemi di integrazione e di cittadinanza, che sono miseramente falliti. Sono falliti persino in uno stato come quello francese, che sai Dio se non ha cercato di applicarli. Ma sono falliti, noi non abbiamo ancora la rivolta delle periferie. Noi non abbiamo ancora quello. Abbiamo tanti bei casi anche di accoglienza, di integrazione. Noi non abbiamo ancora quello, Giuliano, anche perché, come sai, la nostra immigrazione è più recente, no? Dobbiamo dire, la Francia è diversa. Quello che soltanto volevo dire è che il problema è un'illusione, soprattutto la cosa più grave, è che è un'illusione pensare di risolvere un problema così grande come quello di masse di diseredati che non hanno da mangiare, che arrivano, pensando di risolverlo o sparando come Zapatero o dicendo che sono delinquenti. Torniamo un attimo, perché tanto dobbiamo chiudere, invece a un sospetto politico che affaccia Marco da Pavia, che è cinico, più cinico di tutti noi messi insieme. Marco. Difficile. Sono cinico e un ex comunista, forse per quello un po' di dittologia mi è rimasta dentro. Il sospetto è venuto che qualche mese fa, sulla legge delle intercettazioni, la Lega ha detto non si può porre la fiducia. Qui bisogna andare per disegni di legge e diverrà una cosa lunga. Ora, poi ho visto che sia la sinistra che la destra, che hanno un po' di interessi su queste intercettazioni, perché parecchi di loro sono stati intercettati e gli farebbe un bel favore, hanno cominciato quindi a sparare al zero. E quindi secondo lei c'è un negozio, diciamo, un baratto, una fiducia a me, una fiducia a te, così. Che ha parecchi dei suoi sotto scacco, ha cominciato a mettergli paletti per dire mettiamo uno ma mettiamo anche l'altro. E quello, l'altro dalla sinistra, Franceschini, a cui farebbe piacere che D'Alema e tutta la sua cozzaglia per questo spara anche lui alto. Cosa facciamo? Sentiamo... Metto il decreto legge, mettiamo tutte e due assieme e facciamo passare la fiducia su tutte e due. Sentiamo, grazie Marco. Sentiamo da Maria Teresa Melli l'ipotesi del baratto. Fiorisce a Montecitorio? No, non sta fiorendo a Montecitorio, in compenso sta fiorendo un'altra cosa altrettanto e cioè? Diciamo dietrologica e cinica. Quando ieri Franceschini ha parlato, ha detto le leggi razziali, ovviamente per primi quelli del PD hanno avuto un modo di sorpresa. Un soprassalto. Anche, sì, di soprassalto, sono anche molto arrabbiati con il loro segretario perché ha detto questa frase a sproposito. E poi però è fiorita una dietrologia secondo cui Franceschini avrebbe detto questa frase appunto spropositata perché ha paura che D'Alema abbia un contatto con la Lega sul referendum, la legge elettorale, eccetera, eccetera, scavalcando Franceschini, facendo fuori Franceschini, e quindi per bloccare D'Alema. E questa è la dietrologia va bene, grazie a Maria Teresa Meli, grazie a Rita Narmeni, a Francesco Cundari e a Michele Brambilla, in redazione Franca Fossati e Gloria Guerrero, in regia Alessandro Chiappini, Giorgio Mattei, linea al GR, poi a Gianluca Nicoletti con Melo 2.0. grazie, a domani, baci.